Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, poche settimane fa avete sentito delle notizie poco confortanti sul non sviluppo dell'economia italiana, sull'andamento del PIL. Vi ricorderete che in realtà un'ombra di positività c'era anche in quei dati, cioè il segno più nel settore agricolo, a conferma dell'importanza che questa filiera dell'agroalimentare ha per la nostra economia e anche per l'immagine dell'Italia nel mondo. E allora di questo parliamo questa sera con il libro di Alessandro Marzo Magno, intitolato Il genio del gusto, come il mangiare italiano ha conquistato il mondo, pubblicato da Garzanti, 344 pagine, 19,50 euro. Dopo i libri e i soldi, Marzo ci parla dunque del cibo e va molto in là nel tempo, addirittura al 997, quando si trova il primo riferimento scritto alla pizza. Poi un lungo silenzio documentale fino al 1570, quando scopriamo dal diario del cuoco del Papa Pio V che la pizza era un piatto servito anche alla corte pontificia. Quindi il cibo e anche i cibi più umili hanno in realtà delle origini molto nobili e antiche, e non si tratta solo della pizza. Via via, nei successivi mille e più anni, troviamo una serie di nuovi piatti, prodotti alimentari e mode come il carpaccio o lo spritz di cui parla questo libro. Ma facciamoci accompagnare in questo viaggio nella cucina italiana dall'autore. Buonasera ad Alessandro Marzo Magno. Buonasera, buonasera. Alessandro Marzo Magno, una domanda sorge quasi spontanea al termine della lettura di questo suo libro. Lei che idea si è fatta? Come si è spiegato questa ricchezza straordinaria del patrimonio culinario italiano? Beh, perché qui gli italiani sono stati bravissimi a prendere, ad assorbire i cibi, le indicazioni che venivano da fuori, a rivoltarli, a rielaborarli, a rifarli, a unirli, a riproporli e imporli al mondo. E questo è avvenuto anche attraverso una forma di spettacolarizzazione del cibo. Lei parla anche di banchetti spettacoli, per esempio, che erano una tradizione della nostra storia culinaria. Ah, proprio sì, nel Rinascimento il banchetto era uno spettacolo, non era un'occasione per mangiare, era un'occasione per mettere in piedi delle rappresentazioni anche vere e proprie. Ci sono stati anche dei casi di commedie rappresentate durante i banchetti, di giostre addirittura con combattimenti, e poi tutta la tavola era una spettacolarizzazione. Non si poteva portare in tavola un animale arrostito, bisognava rivestirlo della propria pelle, se era un volatile rivestirlo delle piume, bisognava trasformare i pesci in carne, la carne in pesce, e far finta che gli animali fossero cose diverse da quello che poi erano, mettere animali vivi accanto agli animali cucinati. Questa socialità e questa spettacolarizzazione del cibo, che impatto ha avuto proprio sulla tradizione culinaria? Beh, ha avuto un impatto molto grande e ha influenzato tutta la cucina medievale rinascimentale fino al 500, che è stato il secolo della cucina italiana. Dopo però c'è stata una specie di reazione, che è quella francese, e nel 600 i francesi, che tornano ai gusti più semplici, tornano agli ingredienti, impongono la loro cucina, che poi influenza quella attuale. Insomma, noi siamo figli della cucina francese del 600 più che della cucina italiana del Rinascimento. Probabilmente non ci piacerebbero quei cibi. E infatti lei parla di questo aspetto della separazione che a un certo punto le due cucine prendono, quella francese e quella italiana. Ma non c'è dubbio, ma la nostra caratteristica poi è stata appunto quella di usare ingredienti e di mescolarli fra di loro e di creare delle novità. La cucina francese deriva da una cucina di corte, la cucina italiana invece no, sono cucine di tradizione locale. E appunto la grandezza è stata questa. Pensiamo alla pasta al pomodoro, no? Che è il più iconico alimento italiano. La pasta secca ce l'hanno data gli arabi, il pomodoro viene dall'America. Soltanto dall'Ottocento si mangia la pasta col pomodoro, perché prima si mangiava col burro e il formaggio, eppure siamo stati in grado di farla diventare il più rappresentativo piatto della cucina italiana. In questa sta la nostra grandezza. E fermiamoci un attimo sulla pasta. Allora, innanzitutto se ne occupò anche Leonardo, ho letto dal suo libro. Ah, assolutamente, Leonardo ha disegnato anche delle macchine alimentari e ha, tra i disegni conservati nel Codice Atlantico, c'è una macchina per fare spago mangiabile, che sarebbe insomma una specie di macchina per tirare la pasta per poi ottenere più che degli spaghetti, delle fettuccine. Il problema è che questa macchina esercitava una pressione troppo grossa e la pasta si rompeva, per cui insomma, non ha mai funzionato a dovere. Ecco, l'altra domanda sulla pasta riguarda gli spaghetti, perché lei spiega l'origine di questa pasta per la quale ci contendiamo il primato con la Cina. Lei mi pare dia un po' un colpo al cerchio e un colpo alla botte, nel senso che attribuisce l'importazione in Italia a un marinaio veneziano, appunto, però di un prodotto cinese. Sì, noi non sappiamo esattamente che legame ci sia tra gli spaghetti cinesi e gli spaghetti italiani. Potrebbero essere parenti, ma potrebbero essere anche due alimenti a cui si è arrivati per vie parallele senza che si incontrassero. Quella del marinaio è una leggenda, in realtà molto divertente, ma appunto è soltanto una leggenda. In realtà può essere che gli spaghetti abbiano viaggiato lungo la via della seta, ma non lo sappiamo con precisione. L'aggiunta che è da fare è che lo spaghetto, come noi lo conosciamo, è figlio dell'industria, perché soltanto con la trafilazione e con quindi l'industrializzazione nell'Ottocento otteniamo gli spaghetti che noi conosciamo. In precedenza gli spaghetti non esistevano, esistevano i vermicelli, ma che erano una pasta leggermente diversa rispetto agli spaghetti. Veniamo a un cibo milanese, il panettone. Lei non è tanto tenero all'inizio di questo capitolo, perché lo definisce col pandoro un dolce dopato, gonfiato di lievito, pompato di uova, addizionato di burro. Fa così male il panettone? No, assolutamente, anzi è proprio la sua grandezza. Ci sono alcuni alimenti, uno il panettone è uno di questi, ma anche non è un alimento, è una bevanda, ma insomma il caffè espresso all'italiana, che sono figli dell'industria. Noi oggi abbiamo un concetto negativo del cibo industriale, ma invece non è così. In alcuni casi è proprio la grandezza di questi cibi è dovuta all'industria, e il panettone e il pandoro hanno avuto un percorso parallelo. Domenico Melegatti a Verona e Angelo Motta a Milano hanno preso i dolci di Natale tradizionali, li hanno riempiti di burro, di uova e di lievito e li hanno fatti rialzare a più del doppio della loro lievitazione precedente. Non è affatto un difetto, anzi è un pregio. Lei parla a lungo dell'industria alimentare. Secondo lei qual è stato il prodotto più innovativo, più significativo di questa straordinaria capacità inventiva degli italiani? Il prodotto in quanto alimento è quello di cui si sta festeggiando il cinquantenario in questi giorni, cioè la Nutella, che è diventata una delle grandi icone della gastronomia italiana. No? Il primo barattolo di Nutella esce dalle linee della Ferrero il 20 aprile del 1964. Ma secondo me l'insieme che è anche più affascinante come storia è quello del caffè. La storia di come si è passati dal caffè alla turca, perché così si faceva anche in Italia prima dell'arrivo delle macchine, all'espresso e quindi all'espresso da bar, alle macchine da bar e all'espresso casalingo e alla Moka Express Bialetti, è una affascinante e bellissima storia industriale di capacità innovativa e quindi anche di capacità di trasformare un alimento, una bevanda che dal caffè tradizionale si passa al caffè espresso che rappresenta l'Italia in tutto il mondo. Ecco, finiamo con le bevande. Lei parla delle mode alimentari, il carpaccio, poi c'è lo spritz. Lei apprezza questa moda? Lei che è veneziano? Figuriamoci, io ci sono nato e cresciuto con lo spritz. E come adesso si spiega questo successo planetario? Insomma, il successo è dovuto a una campagna pubblicitaria che ha fatto la Campari quando ha acquisito il marchio L'Aperol, insomma l'aperitivo Aperol. Per rilanciarlo l'ha rilanciato pensando allo spritz Aperol e quindi ha fatto diventare un aperitivo che era popolarissimo ma locale, era popolarissimo a Venezia, a Padova, a Treviso, ma insomma in questa zona ben definita, l'ha fatto diventare un aperitivo prima nazionale e poi l'ha fatto anche uscire dai confini, però l'ha cambiato. Perché ora fuori dal Veneto lo spritz è principalmente con l'Aperol, quasi nessuno lo fa con gli altri aperitivi con cui tradizionalmente si faceva a Venezia, il Select, il Bitter Campari o il Cinar, e soprattutto si fa col Prosecco, mentre questo ci tengo a dirlo, lo spritz originale non è col Prosecco ma è col vino bianco fermo. Mi raccomando ai nostri lettori, però attenzione se state guidando. Grazie ad Alessandro Marzomagno, autore del Genio del Gusto. Buonasera. Grazie e buonasera agli ascoltatori. E a proposito di Nutella, vi risegnalo il libro di Gigi Padovani, che è un giornalista e critico gastronomico, Mondo Nutella, 50 anni di innovazione. rinnovazione, pubblicato da Rizzoli Etas, 234 pagine, 18 euro, che illustra in parole e immagini la strabiliante carriera di questo prodotto. Sul tema del gusto, vi segnalo il libro di uno psicologo australiano, John Prescott, Questione di gusto, perché ci piace quello che mangiamo, è pubblicato da Sironi, tradotto da Alessia Fabbri, 18 euro, 236 pagine. Nella premessa Prescott confessa la propria passione per la cucina italiana, che gli considera la prima cucina mondiale, così la definisce. Parla anche nel libro di un'esperienza culinaria italiana, questa fortunatamente abortita, cioè la cucina futurista, che per la verità voleva ridurre l'alimentazione alle pillole, lasciando alla cucina vera e propria il ruolo di pura trasmissione estetica. In questo, dice l'autore, fu la cucina futurista l'autentica anticipatrice della cucina molecolare venuta poi di moda qualche decennio dopo. Ma insomma, è buono quello che piace. Allora, perché a noi piace la pizza e ai giapponesi piace iniziare la giornata con i natto? E anche all'interno di una stessa cultura, perché ad alcune regioni piace un determinato cibo che altre regioni aborrono? Insomma, perché non a tutti piacciono le stesse cose? Un po' certo per trasmissioni ataviche, ci dice l'autore, perché si tratta di gusti innati, ma anche per l'associazione a valori positivi che attribuiamo ad alcuni cibi. Cambiano le pressioni, ma comunque, dice Prescott, resta un fatto che nonostante la crescente attenzione per il cibo e la salute, l'appetibilità rimane il primo criterio di scelta del cibo. Se un cibo è molto gustoso, probabilmente lo preferiremo ad altri, sia in frequenza che in quantità. Insomma, se buono ci piacerà. E allora viene qua ripercorso il rapporto con il cibo fino al dibattito odierno sui cibi malsani, un dibattito fuorviante secondo l'autore, e naturalmente sulle diete. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto il nuovo titolo di un autore che ha raggiunto una fama planetaria quando scrisse il suo libro, un libro di divulgazione filosofica che, vi ricorderete, si intitolava Il mondo di Sofia, l'autore Jostein Gaarder, norvegese, che adesso ritorna con Il mondo di Anna, è pubblicato da Longanesi, 202 pagine, 14,90 euro, tradotto da Lucia Barni. E qui Anna affronta dal remoto villaggetto norvegese nel quale vive il tema della sopravvivenza di molte specie animali e dello stesso pianeta. Poi vi segnalo due titoli che hanno al centro gli intrighi dei servizi segreti. Il primo si intitola Sotto controllo, Edward Snowden e la sorveglianza di massa, l'autore Glenn Greenwald, che è un giornalista inglese, pubblicato da Rizzoli, 376 pagine, 15 euro, tradotto da Irene Annoni e Francesco Peri, che ricostruisce il caso del giovane informatico che lavorava per la CIA e per la NASA, che ha rivelato al mondo il ramificatissimo programma di sorveglianza universale, il più sofisticato mai realizzato. L'altro libro è quello di un autore italiano, Luigi Carletti, un giornalista, che si intitola Super Notes, è pubblicato da Mondadori, 392 pagine, 19 euro, e affronta un caso altrettanto clamoroso ma molto meno noto. Riguarda un agente dei NOX, un agente italiano, che è stato tenuto prigioniero per quasi un anno in un campo di concentramento cambogiano per una vicenda che è stata molto trascurata dai media italiani e che ha al centro un inquietante e colossale traffico di banconote falsificate che gli rivela un intreccio a livello internazionale tra servizi segreti di tutti i paesi. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai... Dobbiamo andare a Cine, vai a Cine, vacci tu. Tatarazzaz, tatarazzaz, tatarazzaraz, tatarazzaz. Le note di Iannacci ci hanno introdotto al tema che adesso vi presento, che è il ciclismo. Siamo nel pieno del Giro d'Italia che si conclude domenica prossima a Trieste, e allora vi segnalo innanzitutto un libro di grande formato, un libro strenna per gli appassionati, che si intitola Ciclismo, la storia di una grande passione, nelle prime pagine della Gazzetta dello Sport, curato da Pier Bergonzi e Delio Trifuri, è pubblicato da Rizzoli, 39,90 euro, 336 pagine. Si parte dalla copertina del 3 aprile 1896, che è la prima uscita della Gazzetta dello Sport, che era nata proprio sull'onda della passione per il ciclismo, e infatti questo storico giornale nasce dalla fusione di due dei tanti giornali che già esistevano a quell'epoca sul ciclismo, che si chiamavano Il Ciclista e Tripletta, testate dedicate esclusivamente al ciclismo. E qui troviamo le prime pagine del quotidiano dedicate in questi anni al ciclismo, pagine riprodotte integralmente con alcune introduzioni e una cronistoria dei vari periodi, da quello dei pionieri fino allo shock finale degli ultimi anni, 15 anni di emozioni sprofondate nella vergogna per gli scandali che si sono succeduti negli ultimi anni anche nel settore del ciclismo. Una vergogna però, conclude Luca Gialanella, che non cancella il fascino del Giro. E infatti, scrive Gianella, con quel pubblico sulle strade che non lo abbandona, 10 milioni di tifosi, l'abbraccio di una nazione che il ciclismo ha accompagnato nell'uscita dalla miseria e che sulla bici ha trovato la forza per rialzarsi dalle macerie della guerra. Continuiamo con il ciclismo con due libri su questo tema. Il primo è curato da Isabella Borghese, si intitola Una bella bici che va, pubblicato da Giulio Perrone, 172 pagine, 14 euro. Qui troviamo 25 autori che si misurano con la bicicletta raccontando del proprio rapporto con questo mezzo. Aprono Stefano Benni, che qui ripropone un suo breve scritto già pubblicato, Fulvio Ervas e Andrea Satta. E sentiamo da Satta proprio una testimonianza della sua esperienza di inviato al Giro d'Italia e al Tour de France. Celebrazione della bicicletta sono il Giro d'Italia e il Tour de France. In TV il ciclismo appare un po' all'improvviso, ad ogni primavera, ma generosamente contemplato. E allora l'infanzia che ritorna e certe attese nei pomeriggi da bambino. Così negli ultimi anni ho fatto l'inviato, se così si può dire, dirò, al Giro e al Tour. Una volta sul Père Sourde, un colle storico sui Pirenei. A una curva c'erano su due sediole. A una curva c'erano su due sediole due ragazzi e ad una mezza balza di prato più su due vecchi su altre due sediole. Saranno state le 11 del mattino. Si ingrandivano nello schermo dei miei occhi, lacrimati di fatica e di follia per aver tentato in bicicletta l'aspro colle. Quei quattro sulle sedie guardavano fissi verso il basso. La valle di Luchon in fondo, come se potesse, da un momento all'altro, venir su qualcuno della corsa, che però doveva ancora darsi il via 100 chilometri più a oriente. Alle 4 del pomeriggio un norvegese passò primo in cima, sconosciuto e destinato ad essere raggiunto anche dal camion della spazzatura. Ma lassù, circondato da moto lampeggianti, auto ed elicotteri, biondo, magro, leggero e silenzioso, lo accolse un applauso da campione, anche se nessuno ricorderà il suo nome. Intorno si cucinava, si giocava a palla, ci si passava il vino, si improvvisavano striscioni in rima, ci si baciava sui prati avvolti dalle bandiere. L'altro libro è quello di Enrico Brizzi, In piedi sui pedali, pubblicato da Mondadori, 160 pagine, 10 euro. Un libro costruito sui modelli di bicicletta che hanno punteggiato la vita di Brizzi, a partire dalla numero 1, quella da bambino con cui si inizia la carriera ciclistica. E quindi questo libro è da un lato una sorta di autobiografia per biciclette, ma dall'altro anche una storia del ciclismo negli ultimi 35-40 anni. Arriviamo poi alla bicicletta in carico, una mountain bike che ha fatto riprendere a Brizzi il gusto della pedalata dopo che si era interrotto quando l'autore si era dedicato al trekking, una passione di cui ci ha lasciato anche molte testimonianze di cui abbiamo parlato qui con i suoi ultimi libri. E ripercorre Brizzi anche la sua carriera letteraria, che può essere letta come un'allegoria ciclistica, come ci spiegano queste righe. Quando ti mettevi quieto davanti al computer, capitava di pensare che l'esperienza ciclistica era stata la più importante delle lezioni. Ti sembrava, infatti, che per scrivere un romanzo fossero richieste doti non diverse da quelle necessarie per completare una corsa a tappe. Costanza, decisione e consapevolezza che non si porta a casa il risultato soltanto a forza di guizzi, strappi e colpi di genio. Oltre al talento, è indispensabile la regolarità, la pratica quotidiana, lo stoicismo che ti guida a metterti al lavoro un'ora prima anziché un'ora dopo. All'inizio avevo creduto che la narrativa si giocasse sulla nuda ispirazione. Ora mi rendevo conto che, come in tutti i mestieri del mondo, erano centrali la resistenza e la capacità di rimettersi in gioco un giorno dopo l'altro. Anche per questo ammiravo gli slanci generosi e arrischiati di Pantani. Lui, che sapeva meglio di chiunque altro come la sorte potesse levarti tutto in un istante, non smetteva mai di provare a ingraziarsela, tentando la fuga anche quando la prudenza avrebbe consigliato di restare nel gruppo. Il pirata non aspettava il momento giusto, per il semplice motivo che per lui era sempre il momento giusto. A questo punto... Il confettino. Uno strano ciclista troviamo nel libro di Tosca Menten, che è un insegnante e scrittrice olandese, Tommy la mummia e lo scarabeo d'oro, con le illustrazioni di Ellie E.S., pubblicato da Fabbri, tradotto da Laura Rescio, 240 pagine, 12 euro. Troviamo qui un romanzo con uno strano protagonista, una giovane mummia che riemerge dal passato e diventa amico di un ragazzino, Gus, che lo abituerà anche ad andare in bici, con un esordio disastroso. Ai nostri amici protestanti, ma non soltanto, ricordo che martedì prossimo cade il 450° anniversario della morte di Giovanni Calvino, che era nato nel 1509. Il grande riformatore, forse il più noto con Lutero, ci viene presentato in un volume di Christoph Strom, intitolato appunto Giovanni Calvino, pubblicato dal Mulino, 154 pagine, 15 euro, tradotto da Marco Cupellaro. Nonostante il ruolo fondamentale che Calvino ha svolto nel ridisegno delle religioni del cristianesimo moderno, in fondo poco si sa della sua vita. Tra l'altro, ricorda l'autore, la sua eredità è sempre stata accompagnata da molte polemiche. Lo stesso Strom ci ricorda infatti che Calvino è stato a lungo criticato per le conseguenze sociali del tentativo di attuare coerentemente la riforma. In una sua celebre biografia, Zweig lo presentò come la figura simbolo della repressione dello spirito e della coscienza. Altri però hanno visto in Calvino l'antesignano di un approccio razionalista che ha forgiato la civiltà occidentale, e a questa contrapposizione ha molto giovato appunto l'ambiguità, la contraddittorietà della personalità di Calvino, che in questo libro ci vengono presentate, concludendo sulle ragioni del successo del calvinismo e della sua influenza, che secondo l'autore è stato positivo anche per la nascita e lo sviluppo della democrazia. Infatti ci dice l'autore: l'accento sul potere che il peccato esercita non solo sul popolo ma anche sui titolari dell'autorità statale richiedeva la verifica delle loro prerogative di potere. Un tema mi pare molto attuale. Due titoli su Calvino ha pubblicato la casa editrice specializzata nella letteratura protestante, cioè Claudiana. Il primo si intitola Calvino e il calvinismo politico, è curato da Corrado Malandrino e Luca Savarino, 388 pagine, 28 euro, nel quale troviamo vari interventi proprio su questo tema, quello della influenza che Calvino ha avuto sul pensiero politico moderno. E in questo libro Deborah Spini per esempio nota come dappertutto si assiste a una voglia di religione, a una voglia di post-secolarismo, e allora in questo dibattito culturale rinnovato è importante, ci dice il richiamo a Calvino, cioè la distanza ferma tra parola di Dio e parola umana, la coscienza tragica, e proprio perché tragica, liberante, del disordine del mondo e della necessaria precarietà di ogni disegno umano. Questo il suo lascito. L'altro libro riguarda invece l'influenza di Calvino in Italia, curato da Susanna Peyronel Rambaldi, si intitola Giovanni Calvino e la riforma in Italia, ancora Claudiana come dicevo prima, 462 pagine, 35 euro, che parte proprio dall'immagine un po' sulfurea di Calvino come dittatore tirannico e senza scrupoli, una lettura che naturalmente è stata favorita in Italia dalla preponderanza della cultura cattolica. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.